città TG con solo le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti, regia del Bolognese Volante. Ma che bella questa sigla, ogni volta che l'ascolto mi viene in mente l'estate, un'estate insomma degli anni 80. Bene, buon pomeriggio a voi, ben ritrovati, sintonizzati sui 103 e 100 in modulazione di frequenza. Io sono Franco Paoletti, al di là del vetro il nostro sempre presente, sempre verde, come si suol dire, il nostro dinosauro. Non faccia mica lo spiritoso, Paoletti, che vengo lì che la schiaffeggio. No, ma perché insomma, buon pomeriggio a lei, la vedo comunque accaldato. Non faccia lo spiritoso. No, assolutamente, che non mi permetterei. Giornata. Ah, non è giornata, poi mi racconterà quale è la sua giornata. Benissimo, allora, puntata numero, oggi ho perso il numero, comunque è scritto, domenica. Basta leggere. Non c'è scritto oggi. Oggi la regia si vede che sono al mare. È la puntata numero 26 di domenica 2 luglio, lo scriva pure. Bene, oggi è 2 luglio. Ah, ok, sì, beh, certo. Oggi ieri domenica 2 luglio, esatto. E siamo già al mare, praticamente le persone sono già andate al mare e infatti siamo la nostra redazione, non la redazione ci ha lasciato perché è andata al mare, quindi siamo io e lei a fare un monologo. Quella persona che vedo lì di fianco, cos'è, un fantasma? No, questa è una new entry, è ritornata la signora delle pulizie. Ah, capito? Ho capito. Quindi, cioè lei viaggia con una redazione che fa le pulizie, che fa anche le pulizie, inizi la trasmissione, che ogni tanto giustamente ci vuole anche un colpo di straccio qui e là. La botte. Esatto, e quindi così ci ha fatto compagnia e ci farà compagnia. Buon pomeriggio a lei, facciamo parlare questa polacca. No, ma cosa dice Paoli? Ma non cosa sta so dicendo questa... Paoletti? Vengo lì che do due schiaffetti perché si riprenda. Non lo so, secondo perché, me lei qua... non lo so. Ma cosa ha mangiato? Me la ritrovo oggi? Qui. Cosa ha bevuto so, oggi? Paoletti, guardi me, non guardi la redazione. Cosa ha bevuto? No, niente. Si fa per ridere, ovviamente. Vuole che inizi io? No, allora abbiamo si detto riprenda, che si mi consenta, si riprenda. No, mi riprendo e quindi dicevamo musica bravo. Italiana al 100% in questo spazio insomma dedicato alla musica indie e non solo, diamo uno sguardo alle uscite discografiche indipendenti, poi magari qualche giorno dovremmo dare un'occhiata alle classifiche indipendenti che vedo ci sono diverse curiosità. Ma non deve mica dirla a me, deve dirla alla redazione musicale che spaccio per polacca lì, perdono no, le pulizie, non sono mica io la redazione musicale. Vada avanti. Beh, insomma, dicevamo che diverse nostre proposte sono già arrivate in classifica e devo dire che di ciò mi piace molto perché insomma abbiamo dato voce e spazio anche agli aerei, non solo, ma anche così alle nuove uscite discografiche e ai nuovi giovani che giustamente anche loro necessitano di uno spazio. Allora, prima proposta musicale oggi ce la propone Alan con Andiamo al mare e poi vi parlerò di loro. Io non ci speravo, io non ci credevo che a fine serata restassimo io e te. E mano nella mano andiamo più lontano, dove gli occhi non cadono su di noi. Abbracciami forte poi, fammi sentire che tu mi vuoi. Due stelle che stanno cadendo. Esprimo il mio desiderio e poi mi lascio andare negli occhi tuoi. Dicono che ora tu mi vuoi. E allora besame, besame, sola luna. E dimmi che senza di me non hai fortuna. Abbracciami più forte poi, proprio quando vuoi. Parlami di noi e ancora besame, besame, sola luna. E dimmi che oramai non c'è più nessuno che ti ama quanto amo te. Sono sola qui davanti a te, io e la luna. Io e la luna. Io e la luna. E cercavo un amore che non passa, quella cosa che ti resta sempre in testa. Non ho mai cambiato il mio punto di vista, ma è una svista. Poi ho visto te, che mano nella mano mi porti più lontano e più vicina nel credere su di noi. Abbracciami forte e poi fammi sentire che tu mi vuoi. Due stelle che stanno cadendo, esprimo il mio desiderio e poi mi lascio andare negli occhi tuoi. Dicono che ora tu mi vuoi. E allora besame, besame, e dimmi che senza di me hai fortuna. Abbracciami più forte poi, proprio quando vuoi. Parlami di noi e ancora besame, besame, e dimmi che oramai non c'è più nessuno che ti ama quanto amo te. Sono sola qui davanti a te, io e la luna. Alan, andiamo al mare. Chiedo scusa, ma c'era un cavetto e non messo bene, per cui mancava un canale, ho risolto in corso d'opera. Beh, lei è sempre incidenti così attento. Lei è sempre così attento, ci fidiamo di lei, non si guarda tutto mai abbastanza, non ci sono più le mezze stagioni. Va bene, allora io ho detto Alan, in realtà appunto gli Alan sono Alex Malaguti alla voce e Andrea Chirico come arrangiatore chitarrista. Questa è appunto andiamo al mare. A questo punto io direi di andare con la prossima, vero regia? Non parla, non dice niente di. No, io penso di aver detto tutto, bene, quindi questo è il pezzo. Sì. Piatto numero uno. Chi abbiamo? Irene Olivier con Valentina. Ecco, sì, il prossimo personaggio è proprio questo, e quindi andiamo con quest'artista di cui vi parlo fra pochissimo. Se venga a parlare di là con la redazione musicale, perché per me qua c'è qualcosa che non va. Ma non ci sei, gli spazi via, ma non insistere, non insistere. Ti scusi, ma col perdono che ci fai? Se neanche tu ci credi più, sia una fortuna perderti nei tuoi guai. Per te, Valentina, lo spazio che ho con te. Piangi un po'. Che importa se dentro un caffè anneghi sogni e cenere? Che importa se davanti a te avevi un uomo inutile? Piango un po'. eccola qua, si chiama Irene Olivier, è nata a Belluno e fin da piccola si è dedicata a cercare la bellezza lì dove è possibile, la bellezza così dell'arte, della musica, e in effetti insomma lei fa anche la fotografa, pensate un po', e ha partecipato a diversi concorsi fotografici fino alla pubblicazione di un suo scatto su Africa Geographic, che insomma le ha dato una grande popolarità. Per quanto riguarda lei, ha avuto diverse esperienze musicali e finora ha pubblicato dei singoli. Nel 2022 insomma per lei è stato un bellissimo anno, perché i suoi due singoli Black Van e Beautiful Year sono andati molto bene nei social. Questo è il suo nuovo singolo che abbiamo ascoltato, cantato in italiano, e devo dire molto molto carino, particolare e particolarmente estivo, e quindi l'abbiamo voluta così nel nostra scaletta. Quindi complimenti anche a Irene Olivier, che insomma si occupa di arte a 360 gradi. E a questo punto, regia, cosa abbiamo? Vedo qualche scritta in inglese, vero? Tranquillo, regia, conferma? The Last Drop of Blonde, Postcards from a Ghost Town. Mamma mia, tutto questo per i The Last Drop of Blonde. Bello chiamare un album con non so, come i film, no? Tipo Rambo primo, Rambo secondo. Per loro invece è proprio così. Alla base del progetto dei The Last Drops of Blood c'è l'idea di unire la propria musica all'iconografia cinematografica televisiva di un certo tipo di film, soprattutto western, seguendo la linea rossa, o meglio quella scia che in qualche modo collega, no, la trilogia del dollaro di Sergio Leone al cinema di Quentin Tarantino, passando per Dead Man Walk, se non sbaglio, di Jimmy Jarmusch. Poi sicuramente la loro musica un po' più gotica, più strana, però insomma loro si avvalgono insomma così dell'immagine, di quelle immagini, e quelle immagini e anche la musica è un po' più dark, però con una certa gotico, e poi con quel trip insomma delle musiche di alla Sergio Leone, insomma quelle cose un po' epiche. Bello bello bello, e devo dire che sono giunti al loro secondo LP prodotto per l'Audio Globe Vrech. Salutiamo David Bonato, no, che li sta curando, sì, e quindi è un grande nel ricercare tutti questi personaggi un po' particolari, gotici, del calibro di Jeff Buckley, Amy Winehouse, questi artisti un po' particolari, così molto molto di nicchia se vogliamo, però poi quando esplodono esplodono, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Comunque li abbiamo ascoltati, e anche dal nome, no, The Last Drop of Blood fa un po' particolare, fa già capire, no, il genere. Passiamo a Ninfea, si dice Ninfea, vero, regia? Sì, va bene. O Ninfea, non lo so. Ma no, lei vada come sente, di Ninfea, certo. E ci presenta Noi. Siamo diversi, lo so, ci tocchiamo a malapena, una goccia sulla schiena, scavata da un artiglio, vive al tuo interno come fuoco all'inferno, voce soffusa ti sfioro. Ninfea, Noi. Eccolo qua il brano, Paoletti. È proprio così, una voce potente, ve ne sarete accorti. Nicole Candela si chiama così, Ninfea. Si avvicina alla musica fin da bimbina e poi bimbina da bimbi. Per me, ma i bambini, i bimbi sono bimbini, vabbè, comunque fin da piccina, diciamo così. All'età di 16 anni inizia la sua avventura nel mondo della musica live, fino a diventare addirittura una front woman di diverse band di hard rock. E poi, insomma, la ricordiamo per lo scorso anno che uscì il suo singolo Ash, che era un incontro tra musica blues rock con influenza elettronica, come i primi, insomma, The Pearl Jam o degli Arctic Monkeys, per poi così arrivare finalmente a cantare anche in italiano. Complimenti a lei, una voce da tenere sotto orecchio, come si suol dire, noi la monitoreremo. Passiamo ai Casual Tox, sì, Casual Tox con She's Crazy. Ascoltiamoli. Yeah. primo singolo estratto dal loro nuovo EP Casual Talks. Sono da un po' di tempo sulla cresta dell'onda, insomma, non sono alle prime armi e devo dire che comunque la loro musica viaggia tra post-punk, industrial, fino ad arrivare, insomma, a un synth pop assai godibile. Quindi, insomma, ma che belle parole, molto trasgressivi, post-punk, funk, industrial. Ma sì, perché post-punk. Poi da lì, sì, sono tutti generi, sottogeneri musicali che delle sfumature, insomma, ve ne sarete accorti, che intraprende, quindi diciamo non è il pop a cui lei è abituato, perché insomma la sua veneranda età ovviamente è un po' avulso da certi circuiti. Io sentivo Lilla Pizzi, Luciano Paioli, certo. Insomma, vede, il che non è sbagliato, perché poi si parte da là per poi arrivare all'evoluzione e lei deve finire di evolversi, giustamente. Ma questo, come giurassico, mi lasci dire. A questo punto arrivano un altro gruppo un po' particolare, si chiamano Sam Project, S-Sam, scritto S puntato A punto M punto, un acronimo, giusto? Giusto, un acronimo. Sam, non confondere Project, con l'aroma cromoterapeuta. Esatto, quella è un'altra cosa. Ci presentano One Day, forza e coraggio, ascoltiamoli. Project One Day. Da dove arrivano? Da dove vanno? Chi sono, Paoletti? Da dove provengono? In realtà nascono nel luglio 2020 dalla mente di due artisti italiani di lunga esperienza anche per loro. Non dico in quali band hanno militato, però insomma. Un segreto? Ma no, perché comunque sono di nicchia, sono praticamente del club, fanno parte del clubbing, per così dire, quindi di circuiti un po' particolari, di This Words per lei, che non frequenta la musica, è un po' hard, un po' ce così l'ha sempre con e me. Mark Boomer, ovvero sia Marco Spinelli. Il progetto insomma è quello di creare sonorità moderne con atmosfere anni 80-90, un sound insomma contaminato, dove si possono trovare tracce di rock elettronico, di drum and bass, di insomma acid jazz, insomma definiscono la loro musica per tutti e per nessuno, e quindi va bene ovunque. Per tutti, quindi, e per nessuno. Esatto, mi piace. Esatto. E quindi non far torto a nessuno, basta suonare e loro vengono ovunque. Ecco, bene, ci sia bene. Possibilità. E noi li raccogliamo. Bravi, li raccogliamo. bravi, mi lasci non batta dire. Al tavolo che mi intona tutto l'acoustic feedback nelle orecchie, dopo diventa anche sordo. Va bene, io non mi permetterei mai. Abbia pazienza. Io abbio. Abbia pazienza, no? Io ho sempre pazienza nei suoi riguardi, si figuri. Piatto numero due. Oh, allora qua c'è tanta roba, eh? Sì, esatto. Piazza quindi Bologna. Mi aiuti lei. Gorbaciov, qui... che non è l'ex presidente dell'ex URSS. Mister Pallotta featuring Edoardo Vianello. Sì. City Car, è sbagliato anche come è scritto, dopo lo correggiamo. City Car, c'è una Y nella seconda I. City, sì, Car. Sì. E poi adesso. Non so, dica lei, non c'è bisogno di annunciare. Come bello sognare. Il tempo di una vita tesserata velocissima. Bronzatissima. Bronzatissima. Siamo spronzi e distanti. Ti cerco in un party di stranzi arroganti e ricchi annoiati. Tu vestiti firmati, io come mentecatti. Parlare per le vie di prati. Io che strappavo fiori dai prati per portarli dentro le tue mani. Ma penso che un'estate in città, se tu sei qui con me, non è poi così male. Scambi giochi di sguardi per due, drink al club o per fare l'amore. Bronzettissima. È durata una notte sui sedili di una city car. Bronzatissima. Bronzatissima. Mai mandato in fissa e poi mai gostato su Instagram. Bronzatissima. Bronzatissima. Quei passi e pariali, ma vuoi mettere dubire da globo? Mangio solo, sai che bonda quando vivo a Bolo. Strappo un altro filtro da un pacchetto di Marlboro per sentirmi un po' più umano, per sentirmi meno solo. Sento che un'estate in città, se tu sei qui con me, non è poi così male. Scambi giochi di sguardi per due, diritto al club per fare l'amore. Bronzatissima. Tanta roba, qui tanti cantanti. Ma anche qui c'è la bronzatissima. Sette giorni fa ne abbiamo parlato di questi brani. Siamo in estate, qua si vogliono abbronzare tutti, cosa vuole che le dica? Ma ha notato, qualche anno fa c'era questo questa mania del mashup, no? Dove c'è praticamente un c'è cantato, quello, il mashup roba, era il cantato di uno mescolato un altro brano. Mashup. Adesso invece c'è questa proprio questa voglia di rifare i brani con Ma noi li facciamo, non c'è problema. Quindi anche questa tutto. Estate abbronzatissima andrà forte, perché ci sono più versioni di abbronzatissima che spopoleranno sulla spiaggia. Questa è quella di Piazza Bologna, Gorbaciov, Mister Pallotta, featuring Edoardo Vianella. In persona, con... che è uno di quelli che ha fatto l'originale. Esatto, esatto, c'è la sua voce in sottofondo con City Car, il pezzo è tra parentesi ovviamente abbronzatissima. Invece adesso? Pubblicità. $10 was basta che mi accendi. Sintonizzati con me. Basta che mi cerchi. Io sarò vicino a te. Non trovi la radio giusta per te? Sintonizzati sui 103.10 in FM e la troverai. Radio Città Fujiko. Cosa aspetti? La fisioterapia è una cosa seria, necessita di attrezzature all'avanguardia e di professionisti con una grande passione per la vostra salute. Noi del Poliambulatorio Descovich lo sappiamo bene. Abbiamo un'esperienza di 60 anni e siamo stati i primi a Bologna ad occuparci di fisioterapia. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, traversa di via Lame, facilmente raggiungibili anche in autobus. 051 649 4501 o prenota comodamente online dal sito, saltando il centralino e a qualsiasi ora su www.descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich. A San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, Via Emilia 92 è la rassegna della tua estate. Via Emilia 92 ha preparato una serie di eventi imperdibili fra cinema, musica e convivialità, anche grazie a un cocktail bar aperto già dall'aperitivo. Il tutto nella suggestiva corte del comune di San Lazzaro di Savena. Vieni a scoprire la bellezza che ci circonda. Ti aspettiamo a San Lazzaro di Savena in Via Emilia 92. Per info, cerca Via Emilia 92 su Facebook. Erano qui prima di noi. Preparatevi ad un incontro inaspettato. Dinosauri in carne e ossa. Un viaggio nel passato per scoprire i giganti della preistoria. Il tirannosauro e il diplodoco, ma anche il dodo, la tigre dai denti a sciabola e tanti altri ancora, tutti in dimensioni reali, per un allestimento spettacolare e scientifico. Dinosauri in carne e ossa. Il parco a tema preistorico. Da oggi aperto a San Lazzaro al Parco della Resistenza. Tutte le informazioni su dinosauricarneossa.it. Dal 24 giugno al 14 settembre l'ottava edizione di Entroterre Festival, ideato e organizzato da Fondazione Entroterre ETS con la direzione artistica di Luca Damiani. Oltre 100 eventi diffusi in tutta l'Emilia Romagna e da quest'anno anche in Toscana e in Lazio. Ad Entroterre Festival la grande musica e lo spettacolo incontrano l'accessibilità, la sostenibilità e la cultura del benessere. Per scoprire i luoghi e il programma completo www.entroterre.org. Nella Bologna Mordi e Fuggi c'è un luogo diverso, dove trovi socialità, cultura, presentazione di libri, controinformazione, impegno e attenzione ai temi sociali, musica, teatro, poesia, ma anche buona cucina. È il centro sociale e culturale Villa Paradiso, in via Emilia Levante 138, fianco Osteria Vini d'Italia. Aperto dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 24. Per info cerca Centro Sociale e Culturale Villa Paradiso su Facebook. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti, regia del Bolognese Volante. In onda Paoletti. Eccomi. Sveglia, eccomi. Seconda parte. Siamo giunti alla seconda parte di Easy Pop insieme a Franco Paoletti, che vi sta parlando è del Bolognese Volante, che è sempre lì pronto a bacchettare. Ma cosa vuole, insomma, che bacchetti? Mezz'ora che dico, faccio dei gesti, dei segni, redazione musicale lì, stavo che la strattonava. No, stavo cosa leggendo legge? Il Tchaikovsky legge, cosa legge? No, va bene, cioè approfondisco gli argomenti musicali. Io lavoro sempre, lei lo sa che la nostra redazione poi si limita, chiudiamo, sbaracchiamo e poi insomma ci vediamo fra 7 giorni. Fra 7 giorni, certo, sempre qui sulle frequenze dei 103.10, come si diceva lo spot di prima, la nostra radiolina. Esatto. Radio Città Fujiko. Visto che bello punto. Spot. Prima. Bellissimo con lui, con il suo amico Camerini. Camerini, che bello. Amico, così siete. A lei, questo Camerini. Guardi, è un amico ormai, quello di casa. Cosa posso dire? Ayrton Jones, la prossima per noi, per voi ci ascoltiamo questa Blood in the Water, il brano che abbiamo prescelto, e poi vi racconto qualcosa di lui, quindi ascoltiamo. Didn't cry on the day she died. She couldn't stand the tears, but I could feel the cold wind blow like a ghost inside the mirror. I couldn't pray on the day he died for a man I never knew. I washed these sins on down the river. For my father, and nothing gonna save me. There's blood in the water. I pray for forgiveness. Let the Lord be my witness. Ain't nothing gonna save me. There's blood in the water. Child of a ruthless man, let the truth be told. Every everyone's got their cross to bear. You carry that weight alone. So what would you give? What would you take? All your dying days. Senti che sound, che assoli. Dopo acclamato. Il sound glielo farò sentire io, una sorpresina per lei. Guardi, le sue sorprese è un cioccolatino con liquore. No, roba niente. Musicale, ma che liquori? Lei è già abbastanza fuori così. Grazie, cioè, del fuori. Grazie che la mia credibilità così accresce di giorno in giorno, di settimana in settimana. Ma non sente cosa dice? Ma cosa ho detto di male? Non lo so. La redazione lì che pulisce la polacca, prima tutto un lavoro io lì, che lavoro. Vabbè, insomma, si fa un po' per ricreare. Comunque sì, ringrazio la polacca per aver ancora. Pulito. Per aver pulito. Guarda un che faccio un schermo. Colpo di mano, vado avanti. Io poi no, si contenga. Vado avanti, sì. Bravo. No, lei sta sto scherzando, come ben lei sa. Voglio ricordare invece 333-180-94-94 per i vostri short message. Short siamo qui. Message, ma come parla bene come oggi? Parlo bene l'inglese, short vero? Message. Allora, acclamato da American Songwriter come uno dei più grandi nomi del genere, Jones, che abbiamo ascoltato, ha pensato, ha aperto per i Rolling Stones. E condiviso il palco con appunto con gruppi come i Guns N' Roses, i Public Enemy, insomma lui è un particolare artista che poi si avvale di tutto uno staff di una band insomma con cui gira, però insomma ha sempre voluto essere se stesso, ha rinunciato anche diciamo dei contratti favolosi con etichette importanti per fare la sua musica, e devo dire che è bravo perché non si è piegato, continua a fare dell'ottima musica e comunque viene ricercato come autore anche dai grandi del heavy metal e non solo. Complimenti, una gran voce e un rock graffiante per Iron Jones. A questo punto ascoltiamo i SSD Project con featuring Jenny B. Oggi proprio lei mi sorprende. Project featuring perché chapeau Paoletti, che lei non sa, io anche adesso ho anche l'insegnante il che mi d'inglese. Faccio il tutor d'inglese e mi faccio ripetizioni di inglese, quindi dovreste apprezzare anche io, esatto, really? Indeed, i miei sforzi. Can we go on, please? Con Boogie Night, ho già sbagliato. Sì, l'assistente gli ha un po' sbagliato qualcosa. Boogie Night. L'assistente nega, adesso faccio partire il brano, dopo dirimerete questa questione. I wanna feel it all my heart, run around alone, alone. I wanna feel it all my life. Si balla Radio Città Fujiko. Ma qui si balla la Radio Fujiko, ma cos'è? L'onda Pride è arrivata anche qua? Tutta la redazione lì che balla, ma cos'è? Una discoteca questa ma qua? No, ma no, lei non ha riconosciuto la voce di Jenny P? Ma cosa vuol che riconosca? Non l'ha riconosciuto, poi? Mannaggia, mannaggia. Gli SSD Project featuring Jenny P hanno appunto messo insieme le loro forze, perché gli SSD Project è pseudonimo di Salvio Saverio D'Angelo, già attore, producer, musicale. E lo ricordiamo soprattutto per le sue sonorità pop dance house, nonché si ricordano i suoi pezzi degli anni 90, quindi musica dance. Insieme a Marco Simenon e Puccioni hanno praticamente scritto la spaghetti dance di quegli anni, dagli anni 80 era ai 2000, un mito, la spaghetti. Ed era, insomma, che dire, un mito sicuramente. E poi Jenny B invece arriva fin dai primi anni 90 come vocalist per Zucchero, ma non solo per Zucchero, per il signor Zucchero, non riesco a fare la S sibilante bolognese. Ma non la faccia, nessuno l'obbliga. Comunque, a farla. Ha lavorato per Zucchero Ligabue finché poi arrivò nel 2000 a Sanremo e si aggiudicò il primo posto nelle nuove proposte, più vinse il premio della critica Mia Martini, e da lì in poi, insomma, la ricordiamo come featuring in tantissimi successi, non ultimo quello che faceva quel grande successo dei Pooh, si ricorda Dam mi solo un minuto. Ma perché vuole imitare la S? Si ricorda? Si rende ridicolo. Va bene, insomma, con i gemelli diversi non si ricorda. No, notte, non si ricorda niente. Allora, lei, no. Insomma, lei non si impegna. Mi ricordo però, i gemelli io faccio della camicia. Allora, piatto numero 2, Vincenzo Capua, bella, lo faccio partire dopo Paoletti ce ne parla, si riprende un attimo. Ciao, era da tempo che non ti guardavo, come stai? Lo so, da tanto non te lo chiedevo, come mai? Ti sto perdendo e neanche me ne accorgo, quando noi ci baciavamo, ci invidiava il mondo. Ed ho capito che quelle volte, quando dicevi sei diverso, facevi a botte con la paura di sembrare pure pesante, e ne uscivamo entrambi a pezzi con le ossa rotte. Io ci provavo a ricominciare dopo l'ennesima sfuriata finita male, ma poi restavo solo e chiuso senza parlare, soltanto con mille pensieri a far rumore. E ripartiamo da qui, da quelle foto che non hai buttato, perché sei bella, bella, bella, bella, bella, bella come non ti ho detto mai. E non respingermi, lo sai, davvero non sono cambiato. La vita è bella, bella, bella, bella, bella, bella come non ho visto mai. Lo sai, pensavo a te, a stare bene con te, tutte le notti che ero solo e non mi addormentavo, ma era inutile, ero più fragile. Sono cose che non ricordavo, quando noi ci guardavamo si scioglieva il mondo. Ed ho pensato alla soluzione, il modo per ricominciare era farlo insieme. Ed ho capito che non bastano le parole, se ami qualcuno glielo devi dimostrare. E ripartiamo qui, da quelle foto che non hai buttato, perché sei bella, bella, bella, bella, bella, bella come non ti ho detto mai. E non respingermi, così sbagliato, non ti chiudere, prova a combattere, il nostro amore non sarà mai frantumato, e ripartiamo da qui. Sì, chiama Vincenzo Capua con Bella, e di lui possiamo dire che è un cantautore romano, classe 1989, ben giovane. Ha partecipato al festival di Castrocaro su Rai 1 per poi proseguire così la sua vena artistica. Ha inciso addirittura una colonna sonora del film di Sergio Rubini, presentato poi al festival di cinema di Roma qualche tempo fa. Il suo singolo Weekend è stato prodotto e supervisionato poi da Paolo Vallesi, che in questo momento è il suo produttore artistico. Però lui anche insieme a Fiorello ospite appunto in varie puntate di Viva Rai 2, e poi anche lui è un nostro collega in realtà, perché è uno speaker radiofonico e conduce un programma musicale con ospiti ed esibizioni dal vivo su Radio Italia, solo musica italiana. Complimenti a Vincenzo Capua, non dirò quella frase che invece lo volevo sulle dire rose, ma lo volevo dire in questo momento, guardi, mi ha rubato le vengo spine lì che gliele rubo, quindi, le rose. No, mi ha rubato le spine a questo le punto invece parliamo di un artista che è ritornata in auge dopo un po' di tempo, ma del resto quando iniziò a cantare era una bambina, poi il successo la traumatizzò, ci fu un periodo così di stasi, e c'è un momento dove il successo non le arrise più. No, ma proprio lei non era preparata psicologicamente, ha avuto proprio un tracollo, e poi piano piano è ritornata in sé e ha continuato a cantare. A questo punto ha fatto un featuring anche lei insieme a Luci al Neon, sto parlando di Jessica Morlacchi, che ci presenta nella playlist dei tuoi pensieri. Jessica Morlacchi. Mi sveglio la mattina, dove stai? E ti cerco tipo FBI. Poi mi chiedo sempre come va. Non sei una scommessa, sei la snaiserata intima tipo Yamama. Tu non sei un vulcano, sei le Hawaii. Poi mi chiedo sempre come stai. Nessuno me l'aveva chiesto mai così. Non c'è niente che non rifarei, senza dubbio qualche sbaglio. Probabilmente mi perderei, bagaglio sopra un Ryanair. Non c'è niente che non rifarei, senza starci a pensare troppo. Con la testa lontana come la luna dopo un tramonto. Scrivimi se di notte non dormi, cercami tra tutti i ricordi, salvami sul cloud, nella playlist dei tuoi pensieri. Guardami più da vicino, stringimi come il cuscino quando non mi trovi. E ti manco, ti manco. Come stai? La sveglia suona, tu non ti alzi mai. Poi curi per un'ora il tuo pensare. Ti chiedo se tu mi ameresti mai così. Non c'è niente che non rifarei, senza dubbio qualche sbaglio. Probabilmente mi perderei, bagaglio sopra un Ryanair. Non c'è niente che non rifarei, senza starci a pensare troppo. Con la testa lontana come la luna dopo il tramonto. Sì, sì, decisamente l'onda Pride è arrivata anche qui. Comunque volevo salutare l'ascoltatore Simone, che dice che ci sono un po' troppi brani dance oggi, ma è estate e i brani dance escono a nastro, come direbbe Paoletti, che se poi ci spiega cosa vuol dire a nastro, è un'espressione friulana. Sì, il nastro non finisce mai, ricordate il nastro per esempio che c'era dentro una cassetta, è praticamente per raccoglierlo, escono per raccoglierlo a nastro, cioè. Sì, praticamente è lunghissimo e sono tantissimi, insomma brani è dance. Come una fila, tantissime ce ne sono, ce ne sarebbero da ascoltare, però qui non è il momento. Allora, Jessica Morlacchi la ricorderete tutti, no? Alle prese. Oh, ma chi che non ricorda Jessica Morlacchi, Paoletti? Con il programma televisivo che c'era su Rai 2, dove l'ultima chance ha pizzicato un tizio, ha pizzicato il sedere di Jessica, poi c'è stato tutta un prequel. Ma com'è che lei segue sempre queste cose pruriginose, Paoletti? Ma non lo so, mi vengono così. Comunque lasciamo perdere perché siamo politically correct. Vorrei anche vedere. Jessica Morlacchi è qui insieme a Luci al Neon, trattasi di un trio di ragazze, un po' come il volo, no? ecco. È stato però Stefano Borzi, che lei si ricorderà sicuramente chi è. No, non glielo chiedo più. È il produttore, insomma, di produttore anche cantante degli esordi, appunto, dai tempi degli esordi di Jessica, che insomma li ha messo in contatto e ha detto: sapete che c'è questo bellissimo brano musicale per l'estate, buttati anche tu con la tua voce particolare, è proprio quella che chiude il trio. E quindi non l'abbiamo inclusa, certo, e hanno fatto bene. Piatto numero 2, adesso abbiamo The Grudge Project Control. First act, the white bird is what is an evil whore. Something is crawling to the neighborhood. Those lies are going under deep, under deep. I don't want to be alone. Electric leaning to my cerebral. Find your own special way to take control. Oh, are we looking for it? On a pedestal, far from Hollywood. On a pedestal, stars are falling. No more signs of blue moon. Keep it going. Moving to face our control. Face on a wall until you hear the call. Embrace the ashes, getting into deep. Shading, misunderstanding to the ones who made it. They found a way for us to fade in. Oh, what we're looking for is on a pedestal, far from Hollywood. The Grudge Project sono una band post grunge italiana nata nel 2014 a Verona, dove si ascolta tanto metal in quella zona, ma in tutto il Triveneto in sostanza. Qualcuno mi ha chiesto appunto che cos'è il grunge. Beh, insomma, è un post rock, un rock sporco, dove però è essenziale batteria, basso, chitarra, insomma proprio sporcati al massimo, e poi insomma una musica sassona, ma molto così liberatoria, diciamo così, è molto essenziale, quindi non curata così come il rock vero e proprio. Sì, appunto, grunge, infatti ricordiamo il look grunge com'era negli anni 90-2000. Bene, a questo punto invece voglio segnalarvi che, anzi, volevo dedicare questo pezzo a questa band che io però non definirei proprio post grunge, ma insomma ancora c'è questo archito di metal. Così, a proposito, saluto GP, il Max Esperto e un Massimo Esperto dei Tigers of Pantang, un gruppo inglese però anche italiano, insomma con influenze italiane nella loro formazione. Possiamo anche dire che GP non è un segreto. E quindi lo saluto anche lui, che tra l'altro è uscito il loro nuovo album, nonché il singolo, quindi insomma mi stupisco non averlo trovato qui, però insomma faremo del nostro meglio anche a suonarlo. Che dire? Allora adesso possiamo io dedico il prossimo brano Sì, Andrea Meda, Proteggerò, all'ascoltatore Simone, appunto, perché questo è un brano che rientra nelle sue corde. Piatto numero 1, Andrea Meda, Proteggerò. E non pensarci più a tutto quello che non sei riuscita ad essere mai. È vero, i tempi cambiano, anche se a volte non come vuoi tu. È vero che a volte mi dimentico di quanto sia bello essere fragili, quindi lasciami spento ancora per un po', galleggiamo nel vento come rondini, e tu sparirai e io sparirò. E non pensarci più a tutto quello in cui non sei riuscita a credere mai. È vero, i giorni corrono molto più veloce di come lo fai tu. È vero che a volte mi dimentico di quanto sia bello essere fragili. Lasciami spento ancora per un po', galleggiamo nel vento come rondini. È vero che a volte mi dimentico di quanto sia bello essere fragili, quindi lasciami spento ancora per un po', galleggiamo nel vento. Molto bello questo pezzo, di grande contenuto e grande fascino. Ha avuto diverse esperienze come chitarrista in diversi gruppi musicali e dei generi più disparati. Nel 2018 viene chiamato a far parte di un gruppo come tributo a Fabrizio De André, e da lì in poi insomma tutto in salita, perché nel 2001 inizia il suo primo singolo e poi l'album, a cui appunto è seguito dopo questi singoli di interesse davvero appunto da parte della stampa, e poi ne arriva l'ultimo fiore, il pezzo insomma è l'album, che è del 2023. Noi abbiamo ascoltato questa Proteggerò, e devo dire che insomma la sua capacità di scrittura si sente tutta, nonché questa voce molto carnale e molto viscerale, insomma si fa sentire e ipnotizza molto. Complimenti ad Andrea Meda. E a questo punto, Paletti? A cosa? Sei fatto così. Lascio il microfono su. Ah. A dirti di sì. Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, se vuoi. Ora parla con lui. Bellissimo. Non riesco a crederci. Abbiamo fatto 250 chilometri per venire a Pescara a vedere un concerto dei Jalis. Dimmi che non è vero. Guarda che i Jalis sono un pezzo di storia della musica leggera italiana. I Jalis? Certo, senti che sound. Guarda la gente che stenta a stare seduta. Come in un film. Spero solo che non mi veda nessuno che conosco. Se no, la mia carriera in discoteca è finita. Fiumi di parole. Allora, beh, effettivamente abbiamo questo stralcio estrapolato da Ex, questo film di qualche anno fa, devo 2009, dire. 2009, ah, con protagonista Fabio De Luigi, bravissimo. È vero, sembra ieri questo film, devo dire, tra i dove miei... c'è questo cameo dei Jalis. Esatto, e devo dire che qui lo dico, non lo nego, è uno dei miei film preferiti, devo dire, dove appunto si ascolta questo monologo, dove si dice che finalmente i Jalis sono un pezzo della nostra musica italiana, ed è innegabile. Guarda, sono d'accordo con De Luigi, ecco. Vincitori del Festival di Sanremo 97 e quarti all'Eurovision Contest Song, che potevano vincere, dicono. Sì, boicottati dalla Rai perché non voleva organizzare l'Eurovision Contest Song, e dalla puntata dall'anno successivo non partecipammo più. Successivi. Ce lo spiegò anche Di Anselmi proprio qui da questi microfoni. Ma... insomma, lo scrisse anche Visigna, quindi insomma, il sommo di TV Sorrisi Canzoni. Ma perché ascoltiamo i Jalis? Adesso che ho 15 anni e vivo nell'ansia del mondo, vorrei assomigliare a qualcuno cercando qualcuno che vive dentro di me. Sono semplicemente una rosa che vuole sbocciare per te. Vorrei staccarmi dal libro come una pagina, prendere il volo con te. Con te segnalo sul tuo diario l'amore com'è, e dimmi chi è, dimmelo bene. amico. Noi che siamo sempre stati insieme, non sappiamo chiedere perdono, perdono, perdono. Vedo una che ho più di 50 e vivo promesse d'inganni, confusi tra ciò che è il pensiero ieri, com'ero e come sarò. Che sia una grande città o sotto un dolce ciliegio, vorrei svegliarmi domani e sentire che il mondo ha scoperto la vita con te, con te. L'amore che abbiamo sognato, sai dirmi dov'è e dimmi perché, dimmelo. Chiede perdono, ascolta anche me. Io quest'amore non lo conosco, quest'amore non lo capisco. Noi che siamo sempre stati insieme. Fumeggiante finale in questa puntata numero 26 di Easy Pop, con il rientro alla grande dei Jalis e questo nuovo ultimo singolo di cui ora parlerete. Oletti sì, ci parlerà. Ma non ho niente poi da dire, anche beh, perché il tempo, anche il tempo stringe. Allora, i Jalis con Perdono, il loro nuovo singolo che praticamente trovate in tutti i social e non solo, devo dire buon tutte per le loro. Piattaforme musicali, sì, va bene. Però c'è da dire che loro vendono più all'estero, buon per loro, che in Italia. Devo dire che si sono ritagliati grazie a quell'Eurovision Song Contest dove arrivarono quarti e appunto si sono conquistati una fetta non indifferente per quanto li riguarda, e quindi complimenti a loro per il nuovo singolo e il nuovo loro progetto. E devo dire che se avessero portato questa canzone al Festival di Sanremo non avrebbe sfigurato. Complimenti ai Jalis, speriamo di averli al più presto, anche perché noi in una nostra intervista. Sono le 16 e abbiamo sforato, quindi saluti veloci, grazie, baci, per abbracci, grazie per l'ascolto prestato. Speriamo di aver fatto trascorrere una simpatica e allegra oretta. Vi lasciamo la programmazione delle trasmissioni di Radio Città Fujiko. Ci sentiamo domenica prossima, stessa ora, stesse frequenze, 103.10 di Radio Città Fujiko. Bye bye dal Bolognese Volante e da Franco Paoletti. Ciao. Con te, l'amore che abbiamo sognato, sai dirmi dov'è? Io questo amore non sul tuo diario, l'amore com'è? Questo amore non lo capisco, e dimmi chi è? Perdono, perdono. Avete ascoltato Easy Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Da-da-da.